Linee d'ombra di Matteo Caccia. Ti senti veramente impotente, perché vorresti veramente aiutare questa persona, abbracciarla, confortarla, ma sei uno sconosciuto fondamentalmente. Fu strano passare 4 ore sigillati in un abitacolo a contatto con dei perfetti sconosciuti. In 5 in un'auto, devi condividere tutto, persino l'aria che respiri. Storie di rivelazioni inaspettate e di una figlia di sconosciuti in una puntata che si intitola Confessione di uno sconosciuto. Chi cazzo sei? Andiamo. Tutti voi sapete bene chi sono. Dì il mio nome. Cosa? Io non ne ho la più pallida idea. Non lo so chi sei. Sì, invece. Sono il cuoco. Io sono l'uomo che ha ucciso Gus Fring. Stronzate. L'ha fatto fuori il cartello. Ne sei sicuro? Molto bene. E adesso, di il mio nome. Sei Heisenberg. Hai maledettamente ragione. Questo pezzo per i grandi amanti delle serie televisive e, in particolar modo, nella fattispecie di Breaking Bad, è un pezzo storico. È vero che è più storico con la, come già dicevamo, credo, un'altra volta, con la pronuncia inglese, no? Perché di fatto Breaking Bad è arrivato in Italia e per lo più è fiorito in Italia attraverso i sottotitoli e quindi con la recitazione degli attori in inglese. Questo pezzo in cui lui dice say my name è diventato una delle icone, insieme a forse altre 5-6 scene di quelle stagioni incredibili di quella serie che appunto è Breaking Bad. Perché parliamo di questo in questa puntata di oggi, confessioni da uno sconosciuto, quindi da qualcuno che non conosci. Io vi spero bene a casa, vi spero in salute il più possibile, vi spero sereni il più possibile. È un momento complesso, lo sentiamo dire da tutte le parti, e adesso oltre al tema della salute e della sanità si accorpa anche il tema della politica, e quindi quando si parla di politica si parla di polemica politica, soprattutto su un certo tipo di media, in un certo tipo di programma, no? Soprattutto i talk televisivi, si è passati dal dare la parola esclusivamente agli scienziati a dare la parola un po' agli scienziati e un po' ai politici e un po' ad alcuni giornalisti che sostanzialmente poi sollevano un po' di polvere. È un po' più fastidiosa del solito quell'operazione in questo periodo, devo dire, l'operazione della polemica in questo momento e dell'urlo libero è un pochettino più fastidiosa del solito, però tant'è, non siamo obbligati ovviamente ad ascoltarla, ed è il motivo per cui noi andiamo dritti per la nostra strada, continuiamo a raccontarvi storie che ci arrivano direttamente da voi. Linee d'ombra @radio24.it è l'indirizzo per mandarvi la vostra storia che ha a che fare con un confine, che ha a che fare con un passaggio. Linea d'ombra arriva poi, forse non so, non l'abbiamo mai detto, o forse sì, comunque lo ripetiamo, Linee d'ombra arriva dal più famoso Linea d'ombra, che è un romanzo straordinario di Joseph Conrad, che racconta, è un romanzo di mare, come moltissimi dei romanzi di Conrad, che racconta il passaggio della linea che separa la giovinezza dall'età adulta. Il protagonista è questo marinaio, giovane comandante, che portando questa nave alla sua prima esperienza da capitano varca quel confine. E da quel momento in avanti poi la linea d'ombra ha sempre avuto a che fare con il confine, non solo quello età giovane, età adulta, ma confine di qualsiasi tipo. In questo caso, ad esempio, nel caso delle storie che vi raccontiamo oggi, il confine è diverso, è proprio il confine tra il conoscersi e il non conoscersi, e in quel confine lì spesso sta nascosta una grande potenziale, perché no, quante volte ci è capitato di incontrare uno sconosciuto, uno sconosciuta, magari durante un viaggio in treno, magari durante spesso durante viaggi, treni, aerei, o comunque in un'occasione in cui devi stare per forza in uno spazio spazio più o meno chiuso con una persona che non conosci e magari, magari no, ma magari una volta su 10 capita che si cominci a chiacchierare, si comincino a dire delle cose e con quello sconosciuto, proprio perché è sconosciuto o sconosciuta, vengono fuori delle cose che probabilmente non avremmo detto al nostro migliore amico. Ecco, questo è il confine che stiamo varcando in questa puntata di Linee d'Ombra con le storie che vi stiamo raccontando. Quella di un gruppo di amici su un'automobile e poi quella di invece una giovane donna che va a scoprire chi sono i due sconosciuti che l'hanno partorita molti molti anni prima. Mettetevi comodi, cominciamo. Benvenuti a Linee d'Ombra. La conobbi in tardo pomeriggio a Torino, ma fino a un'ora prima non avrei mai nemmeno immaginato che le nostre vite si sarebbero incontrate. Avete presente quando dite sì ad un amico e poi ve ne pentite amaramente? Ecco, quel lunedì mattina, alle ore 6:10, mi resi conto che nel mio unico giorno libero mi stavo alzando all'alba per un insensato viaggio di compagnia. In quel momento presi a pugni con rabbia le lenzuola. Avevo detto a Bonnie che gli avrei fatto compagnia in auto fino a Torino. Era un'andata e ritorno in giornata, partenza da Bologna e arrivo in zona Lingotto, nemmeno il tempo di mangiare qualcosa e si tornava indietro. Lui doveva solo consegnare papillon e contratti a degli studenti improvvisati camerieri in una fiera a tema gastronomico. Entrai stropicciato dentro quell'abitacolo poco confortevole che solo una Fiat.S a metano possiede di serie. Il cattivo umore fu spazzato via da una buona dose di ottimismo che Bonnie possedeva di natura e riuscì a vendermi il suo pacchetto vacanze come una innovativa esperienza di viaggio, dove l'arrivo non aveva l'importanza, ma era il viaggio in sé l'essenza del nostro vagare. Lo mandai a quel paese, perché era giusto così, erano pur sempre le 6 di mattina. Lui aprì la cartina per individuare i distributori di metano che avremmo incontrato sul nostro sventurato percorso e io mi appellai a quel rosario che penzolava dallo specchietto retrovisore, chiedendo pietà per la mia povera anima viaggiatrice. Ci vollero 5 ore e 20 minuti per raggiungere la fiera di Torino. Parcheggiammo velocemente in una zona leggermente fuori mano e poi uscimmo come feti esausti dal grembo dell'auto, bagnati di sudore e bisognosi di riattivare una circolazione motoria che pensavamo ormai perduta. Fu un pit stop fulmineo, nemmeno il tempo di respirare l'aria buona di Torino, che Bonnie subito mi annunciò che dovevamo ripartire e che però nel viaggio di ritorno non saremmo stati soli. Bonnie era uno di quelli che trova mille lavori ed era il periodo in cui insieme prima trovavamo anche camerieri per aziende di catering. Io poi dopo ero uscito da quel contesto e doveva portare dei pass, dei papillon per i camerieri che avrebbero lavorato all'interno della fiera. Aveva concordato un bla bla car per ammortizzare le spese del viaggio e sotto la M rossa della metro Lingotto Torino dovevamo aspettare le 3 nostre nuove compagne di viaggio. Erano 3 ragazze che provenivano da differenti punti della città. Nell'attesa ebbi quella strana sensazione che si prova ad un primo appuntamento. Cercavo di riordinarmi i capelli in modo decoroso e provavo inutilmente a stirare con le mani calde le pieghe della camicia che dopo 5 ore di auto erano ormai solchi incolmabili. Ero dispiaciuto per loro, ero certo che avrebbero potuto trovare un passaggio molto più confortevole del nostro. Noi potevamo offrire solo una colonna sonora demodé, composta da tutta la discografia di Fabrizio De André e un po' di aria fresca dispensata da un finestrino a manovella che non sempre compiva in maniera decorosa il suo lavoro. Ombre de muri, muri de maine, donde ne veni, dove le cane. Tenci tu du vali, a semo strani, e a neta na punto, cotelo agu, e a monta la seu garesto dio, o diaule in se, o sega effetto nio, ne shortimo da uma, pesci vai a se d'audria, a fontana di cumbi, tacca de pria. E anda, pria chi che saia intacca d'udria con nulla mai na gente delica facce de mandila vuoi che duro a su preferisci la figlie de famiglia o du de bun, che di pe a mia le senza algum dun. Se vê, consegue daia, cose da bei, cose da mangia, fritia de pinhe, gianco de portofin, cervele de pé, tu mesmo vim, lasagne da figlia, ai quattro tucchi, batido in negro doce, de levre de cucchi. Fu strano passare 4 ore sigillati in uno stretto abitacolo a contatto con dei perfetti sconosciuti. In 5 in un'auto dovevi condividere tutto, perfino l'aria che respiri. Il nostro biglietto da visita non fu dei migliori, ma dopo 20 minuti a cercare l'auto perché non ricordavamo più dove l'avevamo parcheggiata, il viaggio si trasformò in una piacevole condivisione di spazi, idee e ossigeno. Ci conosciamo per condividere solo 4 ore di viaggio insieme. Sono affascinanti le conoscenze con la data di scadenza, perché non devi preoccuparti del futuro e puoi concederti perfino il lusso di essere te stesso. Erano 3 ragazze che tornavano a Bologna ma che vivevano a Torino, quindi ognuna per il loro motivo doveva rientrare. Ed erano comunque 3 belle ragazze, perché Bonnie con BlaBlaCar ha sempre fatto una cosa: seleziona, fa la selezione prima di recuperare le persone da caricare. Quindi erano comunque tutte e 3 di bello aspetto, che era una delle sue caratteristiche. Mi ricordo però che l'unica volta che Bonnie ha ricevuto questa recensione non positiva al massimo era quel viaggio lì, perché questa odiava Fabrizio De André tutto il tempo. Noi le abbiamo fatto una colonna sonora a base di Fabrizio De André. Alla fine scrisse nelle note tutto perfetto tranne la colonna sonora. Erano le 23 passate quando fermammo l'auto davanti all'abitazione dell'ultima nostra passeggera. Si chiamava Francesca. Si vedeva chiaramente che non voleva uscire da quell'auto, timorosa di affrontare la vita che l'avrebbe aggredita appena uscita da lì. Sapete, ci ha detto, ho appena scoperto di essere incinta e il ragazzo che dovrebbe essere il padre mi ha detto che non mi vuole più frequentare. Ovviamente non sa nulla di tutto questo e io credo che me la caverò anche da sola. Siete le prime persone a cui ho parlato di questa cosa. Un pugno allo stomaco ci tolse il respiro. L'unica cosa che avrei voluto fare sarebbe stato stringerla forte al petto e accarezzarle il viso, come si fa con le persone che ami, quando le parole non servono più a nulla. Ovviamente non c'era questa confidenza e quindi l'impotenza si amplificò dentro di noi. Sapete qual è la cosa che mi angoscia di più? Ci disse. È che dovrò abbandonare il mio sogno di studiare all'estero. Ci ritrovammo con il peso e l'insopportabile responsabilità di dare conforto a una sconosciuta. Era un grido di dolore con il silenziatore. Per un attimo mi venne l'insana idea di citare Fabrizio De André, ma poi feci uscire dalla bocca le uniche parole che potevo dire in quel momento. Adesso immagino che sia veramente dura, le dissi. Ma vedrai, sarà la cosa più bella della tua vita. Lo spero, rispose lei. Poi ci salutammo distrattamente, come si congedano gli amici, come se il giorno dopo ci saremmo sicuramente visti. Arrivai a casa con quello strano stordimento che provo solo quando vivo troppo intensamente ogni minuto. La rabbia del mattino si era ormai disciolta e mentre guardavo i chicchi di brioschi friggere con prepotenza nel bicchiere, mandai un messaggio a Bonnie per ringraziarlo di avermi fatto alzare alle 6 del mattino, nel mio unico giorno libero. Oh. Si intitola Confessioni a uno sconosciuto, la puntata di oggi, e la storia di Marco ci ha spiegato molto molto bene il perché, perché è una storia che davvero si può realizzare probabilmente solo negli ultimi 5, 6 o 10 anni, perché alcune app come BlaBlaCar, nella fattispecie, sono nate solo in questo periodo, ma forse si sarebbe potuto anche raccontare in anni passati attraverso l'autostop, ma tant'è. Parliamo di un'altra cosa, parliamo di due amici che arrivano a Torino e lì caricano delle ragazze che non conoscono e queste gli fanno delle confessioni inaspettate. Pronto, ciao Marco, buongiorno. Ciao Matteo, ciao a tutti. Come stai? Bene, dai. Qui alla finestra con una bella piantina di timo sotto il naso che fa un ottimo profumo. Tu ricordami dove abiti, Marco, di dove sei? Medicina in provincia di Bologna. Sei bolognese. E tu, Marco, se non ricordo male, visto che tu ci avevi già mandato un'altra storia tempo fa, una storia accaduta in una doccia, in una parrocchia, insomma, me lo ricordo bene. Una storia piccante. Piccante, esatto. Tu sei un cuoco, dico bene. Sì, faccio il cuoco, sì, in provincia di Bologna. In questo periodo quindi cucini solo per casa, sì. Oppure avete trovato modi alternativi, sì, di consegna, no, a domicilio? No? Per ora abbiamo deciso di non riaprire perché essendo fuori in campagna è difficile anche fare consegne di questo, certo, tipo, quindi ci siamo proprio fermati e abbiamo fatto una piccola pausa. Che previsioni avete? Avete qualche insider, qualcuno che vi dice guardate, di sicuro da giugno, da metà luglio? Io ho sentito voci da fine maggio, però per me sono voci basta, quindi... Sì, effettivamente poi la ristorazione è proprio uno di quei luoghi in cui... Sì, è uno degli ultimi settori che riaprirà. Fisicamente, nel senso che è un luogo in cui devi stare a distanza e poi ci sono i camerieri, insomma è complesso, immagino sia complesso. Sì, però... molto complesso, e poi comunque un settore che quando vai al ristorante vuoi essere sereno, deve essere è un momento felice, se ti trovi un ambiente che è chiuso, con le mascherine, con un clima che non è quello di serenità, difficile. Io sarà che insomma mi capita molto spesso, mi capitava molto spesso di mangiare fuori, ti dico la verità, andare al ristorante è una delle cose che non vedo l'ora di tornare a fare proprio. Infatti, quindi, speriamo. Spero per tutto il settore che insomma ce ne siano molti come me che si fidano e che hanno voglia insomma di tornare a fare quella cosa lì che è conviviale, che e soprattutto poi è che ti metti nelle mani di qualcuno che sa cucinare, perché ragazzi io sto cucinando da un mese e mezzo, insomma non è che sia la cavi. Sopravvivo. Senti, io partirei da qua Marco, perché nella tua storia c'è un dettaglio che proprio solo alla fine che io ho colto, perché sono anch'io un grande consumatore, è quando parli dell'effervescente brioschi, che tu dici mi metto in bocca della brioschi. L'effervescente brioschi, per chi non la conoscesse, è l'equivalente della citrosodina, grosso modo. Della citrosodina, sì. Io l'ho conosciuta perché mia nonna la mangiava in grani proprio, perché aveva fatto i girli, quindi dammi un po' di brioschi, diceva, e quindi si mangiava i grani. Io da piccolo rubavo da mia nonna, anche mia nonna ce l'aveva, c'aveva i vasi e mangiava anch'io i chicchi come fossero caramelle. E quindi tu hai tipo il rituale che la sera prima di andare a dormire ti mangi un chicco di brioschi? Beh sì, se ho avuto una serata nervosa lo faccio, mi aiuta a riequilibrarmi. Senti, quando accade esattamente questa storia? Quanto tempo fa? Sono andato a vedere perché, guarda, mi ricordavo di aver fatto un post su Facebook, uh-huh, e quindi sono andato a rivedere ed era il 2014, quindi neanche tanto tempo fa. Ah, quindi erano 6 anni fa, grosso modo. Avevo pubblicato la foto proprio della M della metro del Lingotto Fiere, e poi avevo scritto due parole su questo evento che comunque mi era rimasto dentro, ecco, e mi era piaciuto condividerlo a suo tempo. Senti, Bonnie è uno sgamato, considerato che sei da un passaggio a tre ragazze. Sì, Bonnie è uno di quelli, qua a Bologna si dice sempre con mille bazze per le mani, le bazze sono il gran giri, ecco. Ok. Senti, e alla fine poi di quella ragazza avete più avuto notizie, avete saputo qualcosa? Alla fine sì, infatti l'ho sentito proprio ieri, Bonnie, che mi sono fatto raccontare bene perché poi c'aveva il numero, l'aveva contattata anche nei mesi successivi, lei adesso vive a Firenze, si dice, con la sua bambina e si è trasferita, però insomma ha fatto una nuova vita. Ed è da sola, è andato tutto bene. Oppure ha un'altra persona, non lo sappiamo. Quella persona lì credo che non l'abbia più sentita, però si è rifatto una vita, ecco. Quindi vi sentite parte di questo pezzo di decisione di questa ragazza oppure no? No, questo non credo. È stato veramente, abbiamo condiviso talmente poco tempo che non credo che siamo riusciti a trasmetterli così tanto, però secondo me qualcosa è rimasto sia dalla nostra parte che dalla sua. Senti, Bonnie, come stai? Bonnie sta bene, sì. Non ci sentiamo tutti i giorni, uno di quegli amici che ci chiamiamo per riempire i tempi morti quando uno ha un tempo morto. Anche se non hai niente da dire, però. Allora... Anche se non hai niente da dire, due cavolate le dici. Qualche bazza la tiri fuori. Qualche vaso, sì. Senti Marco, ti ringrazio molto, mi auguro davvero per te e per la tua attività che le cose ripartano come tutti quanti speriamo, e si sa mai che magari veniamo a trovare. Dimmi il tuo nome, il nome del tuo ristorante, scusa, dove lavori? Locanda Pincelli. A Selva Malvezzi. Perfetto, sì. Così me la guardo, me la cerco e magari non appena riaprite, ma troviamo il modo per venire. Magari, okay, sai cosa, dai, potremmo venirci con tutta la redazione a fare la cena di fine produzione. Plausibilmente sarà verso fine luglio, quindi speriamo che all'epoca sia tutto riaperto. Marco, davvero, grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Anche a te. A presto. Un abbraccio. Grazie, ciao. Anche a te. When every wind's an afterlife out here, what language do you dream and when you're drunk? And feel just like a map of where you've been and all the smoke and mirrors you hung. If only this one held the answer to the aching of her heart. A little drop of poison in the rain, a little drop of madness in my heart. It's nothing but will nothing grow away. Look nervously at things that come apart. If only this one held the answer to our loneliness and all. Through days we love, through days we disappear. To go for all the things behind a cloud. Oh, I'm a stranger now. And where will I undress to disappear? To go for all the things behind a cloud. Oh, I'm a stranger now. Oh, I'm a stranger now. Lui ha detto Tallest Man on Earth, l'uomo più alto della terra, e questo brano si intitola I Am a Stranger Now, sono uno straniero in questo momento, non mi conosci, ed è perché si intitola Confessioni da uno sconosciuto che Luca Micheli ha giustamente scelto questo splendido pezzo di Tallest Man on Earth, e soprattutto con cui ha accompagnato la storia di Marco, che ha aperto questa puntata di Linee d'Ombra. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo con una nuova storia tutta per voi. Linee d'ombra. 25 anni fa, Qian Fengxiang si ritrovò incinta, ma la gioia della notizia venne ridimensionata dal fatto che lei aveva già un altro figlio. La Cina era ancora lontana dal sospendere la politica del figlio unico e Qian sapeva benissimo che se fosse stata scoperta, per lei e la sua famiglia ci sarebbero stati grossi problemi. Per questo si nascose per tutta la gravidanza su una casa galleggiante su un canale appartato di Shuzhou, a 120 km dalla sua casa, e attese. Passato il tempo necessario, diede alla luce sulla barca una seconda figlia. Xu, suo marito, di 24 anni, tagliò personalmente il cordone con un paio di forbici che aveva sterilizzato con acqua bollente, e tutto andò nel migliore dei modi. 5 giorni dopo, Xu si alzò prima dell'alba e portò la bambina in un mercato ortofrutticolo coperto a Shuzhou. Lì abbandonò la neonata, con un biglietto scritto a pennello e inchiostro legato a una mano. «Questa è nostra figlia», diceva il biglietto. Jingzi nacque alle 10 del mattino del 24esimo giorno del 7° mese del calendario lunare 1995. Siamo stati costretti dalla povertà e dagli affari del mondo ad abbandonarla. Pietà dei cuori di padri e madri lontani e vicini. Grazie per aver salvato la nostra piccola figlia e averla affidata alle vostre cure. Se i cieli hanno sentimenti, continuava, se siamo uniti dal destino, allora ci rivedremo sul ponte rotto a Wangzhou la mattina dell'inaugurazione del Festival di Qixi tra 10 o 20 anni da oggi. Ecco, questo è il modo in cui inizia questa nuova storia che vi raccontiamo oggi, in una puntata che si intitola Confessioni a uno sconosciuto. La seconda storia è proprio quella di Jingzi. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Mm. Quella mattina stessa, Jingzi e il suo prezioso bigliettino vengono affidati all'istituto per orfani della città di Shuzhou. Nello stesso periodo, Ken e Ruth Poehler di Huntsville, nel Michigan, decisero di adottare un figlio. Non pensavamo davvero che fosse importante sapere da quale paese adottassimo, raccontano. Ma abbiamo un cognato cinese e anche la sorella di Ruth è adottata dalla Cina. A parlare è Ken, dalla casa in cui Kathy è cresciuta a circa 30 km dal lago Michigan. Lui e sua moglie Ruth sono cristiani evangelici, avevano già due figli ma ne volevano un terzo e così, nell'estate del 96, attraverso un'agenzia per le adozioni, hanno raggiunto l'orfanotrofio di Shuzhou per adottare proprio Jingzi. Ma insieme alla bambina gli è stata consegnata anche quella lettera. Eravamo così commossi dal messaggio, dicono Ken e Ruth. Lo leggevamo e piangevamo. Ma la coppia ha deciso di non dirlo a Kathy di quel messaggio fino a quando non avesse compiuto 18 anni e solo se a quel punto avesse mostrato interesse a scoprire il suo passato. Kathy ha vissuto nel Michigan in una cittadina di circa 7.000 persone. Ho avuto una buona infanzia, racconta oggi. Tutti sapevano che ero stata adottata, quindi non mi è mai stato chiesto nulla. I miei due fratelli sono un po' più grandi di me. Mi sentivo diversa da loro, ma solo perché ero più giovane ed ero una ragazza, tutto qui. È cresciuta tra tornei sportivi, suonando la viola e il pianoforte, ma al 10° anno di età Ken e Ruth si sono ricordati di quel bigliettino. Era il 2005 e Qian e Xu, i genitori naturali, sono andati là all'appuntamento, al Ponte Rotto, il giorno dell'inaugurazione del Festival Qixi. Quel giorno, dice Xu, siamo arrivati presto. Avevamo portato un manifesto con il nome di nostra figlia, ma nessuno ci è venuto incontro. È stato terribile. Qian e Xu, quel giorno, se ne sono tornata a casa, affranti. Ma i Poehlers avevano mandato una persona quel giorno, sul ponte. Abbiamo chiesto a una nostra conoscente cino-americana di andare su quel ponte quel giorno. Non volevamo ancora coinvolgere Kathy, ma volevamo che i suoi genitori naturali sapessero che la loro figlia era stata adottata da una famiglia che l'amava molto, raccontano. L'amica dei Poehler al ponte manca però la coppia, Qian e Xu, per pochissimi minuti. Ma la fortuna ha voluto che Xu quel giorno entrasse in un'inquadratura di una telecamera di un telegiornale proprio mentre alzava il suo manifesto con il nome della figlia. Grazie a quell'inquadratura, l'amica dei Poehler è entrata in contatto con la coppia e ha consegnato loro una lettera con alcune foto della figlia. Ma una volta informati degli sviluppi, i Poehler chiesero all'amica di interrompere immediatamente il contatto con Qian e Xu. Abbiamo pensato che dovevamo aspettare che Kathy crescesse e vedere se voleva veramente ulteriori informazioni sulla sua famiglia naturale. Lei è nostra figlia. Ha i suoi genitori naturali, ma una relazione più profonda con loro avrebbe complicato troppo le cose. Come fanno gli astronomi che scansionano i cieli incessantemente alla ricerca di un segnale che per una volta solo è apparso da un'altra galassia, allo stesso modo Qian e Xu, non avendo altre notizie, hanno pensato bene di tornare tutti gli anni successivi all'appuntamento al Ponte Rotto, il primo giorno del Festival di Qixi. Shattered in history, shattered in pain, oh, in the lengths that I stay up late, but brought to my space the wonderful things I've learned to waste. I should have known that I shouldn't hide, to compromise and to cover. Oh, what's inside? There is no design. You have to decide. If you come to know what the faithful God is. Time to be brave. Contain. Nel 2016 Kati compie 21 anni e si prepara per un semestre in Erasmus in Spagna. È la prima volta che si allontana da casa per così tanto tempo e fra le varie cose a cui pensa c'è anche il fatto che forse qualcuno le farà delle domande sull'origine dei suoi occhi a mandorla. Fu quella, racconta oggi, la molla che mi spinse a chiedere a mia madre di parlarmi del mio passato. E lei mi disse: «Bene, è arrivato il momento che tu sappia». Mi raccontarono tutto e io rimasi scioccata. Kati sente subito di volere incontrare i suoi genitori naturali, Kian e Shu, ma è anche terrorizzata dalla prospettiva. Prova rabbia verso Ken e Ruth e si sente tradita per essere stata tenuta all'oscuro di tutto. Capisce che i suoi genitori americani lo hanno fatto per proteggerla, ma dal suo punto di vista non avrebbero dovuto. Dalla scoperta al giorno dell'inaugurazione del Festival di Kishi passano pochi mesi e quel giorno Kati si presenta sul Ponte Rotto. Anche Kian e Xu quel giorno sono lì sul ponte. Alla vista della figlia, Kian crolla in singhiozzi incontrollati. Kati stessa è paralizzata dall'emozione. Rimane nell'appartamento dei suoi genitori per qualche giorno e condivide la stanza con sua sorella, che tra l'altro è l'unica che parla inglese. Insieme quella sera chiamano via Skype la famiglia Pauls e Kian e Xu possono finalmente dare un volto a chi ha salvato la loro bambina. L'ultima sera Xu consegna a Kati una busta con all'interno un pacchetto di contanti. Le spiega che la stessa somma l'hanno conservata per sua sorella maggiore. Le spiega che non è importante il denaro in sé, ma il fatto di averlo messo da parte per 22 anni è testimonianza del fatto che loro hanno sempre pensato a lei. Kati, dopo quei giorni in Cina, è tornata al college, dove ha cominciato a studiare il mandarino. Suo padre Xu tutti i giorni le manda un messaggio di buongiorno e di buonanotte e lei spera che un giorno entrambe le sue famiglie possano incontrarsi. If we stop dreaming now, Lord knows we'll never clear the clouds. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world. Questa è una storia veramente meravigliosa che abbiamo scoperto grazie a un documentario della BBC che si intitola Meet Me on the Bridge, cioè Incontriamoci sul ponte. È una storia che parla appunto di sconosciuti, parla di lontananza, ma parla anche e soprattutto ovviamente di famiglie, di genitori e di figli. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare le vostre storie dalle vostre case direttamente con i vostri diari dalla quarantena. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. Linee d'ombra. Questa è diventata una sezione molto preziosa di Linee d'Ombra. È diventata preziosa perché di fatto in questo pezzo raccontiamo i vostri diari, raccontiamo cosa succede nelle vostre case, come sono cambiate le nostre giornate, le nostre esperienze quotidiane. Ormai, insomma, la definizione, l'hashtag, chiamatelo come volete, stiamo a casa o state a casa o restiamo a casa, la conosciamo a memoria, sappiamo bene che dobbiamo stare in casa, se possiamo permettercelo. La prossima storia ci racconta proprio di questo, ci racconta di Paola che ha un problema di salute che non è legato al Covid, ha un altro problema di salute che però ha bisogno di essere curato e ha bisogno di essere quindi curato in un ospedale. Quindi Paola deve muoversi da un posto che è diventato, ahimè, noto come la Val Seriana verso Milano, e questo è una sorta di racconto attraverso i suoi viaggi di delle prime 5-6 settimane di questa emergenza. Mi chiamo Paola, ho 37 anni, vivo in Val Seriana, provincia di Bergamo, sono allergica al veleno d'api. Ecco perché da inizio 2020, una volta a settimana, scendo a Milano dove mi sottopongo ad una terapia desensibilizzante per evitare altre reazioni anafilattiche. Il 23 febbraio abbiamo festeggiato il terzo compleanno di mio figlio, è stata l'ultimo giorno di convivialità che ho vissuto. Da lì la vita è cominciata a cambiare, ha cominciato a chiudere. Vengono annullate all'ultimo tutte le sfilate di carnevale, chiude per una settimana l'asilo nido, chiude l'ospedale di Alzano perché ci sono i primi 2 casi di Covid-19 della provincia. Poi c'è un giorno sospeso, è il 23. Un giorno sospeso questo 23. Non si sa cosa bisogna fare e dove finiremo. Il giorno dopo è diverso, sembra tutto rientrato, l'ospedale di Alzano riapre anche se i casi si moltiplicano. Questa settimana non devo fare l'iniezione contro l'allergia perché ho in programma un intervallo di 15 giorni anziché di 7. Le prime volte che mi avventuro da Bergamo a Milano è una lotta con il traffico, con i parcheggi, le zone B, la zona C. Il reparto dell'ospedale policlinico dove effettuo il vaccino è un andirivieni di pazienti, dottori e infermieri. La prima settimana finisce con il 29 febbraio. Sembra tutto sotto controllo, che la chiusura di scuole e teatri sia quasi eccessiva, c'è chi fa aperitivi per riaprire le città. La seconda settimana, da quando è arrivato il virus, torno a Milano. Il traffico è un po' meglio del solito. In poco più di un'ora percorro la A4. Saluto con un sorriso il casellante che alle 5.50 del mattino già lavora da un po'. Trovo parcheggio proprio fuori dall'ospedale e mi concedo la solita colazione al bar nelle vicinanze di Via Pace. Per le strade c'è gente e la solita mendicante se ne sta seduta vicino all'entrata del nosocomio. In reparto invece si deve avere l'accortezza di stare a distanza, ma tutto procede con la stessa routine. Il giorno dopo, il 6 marzo, qualcosa cambia nell'aria della mia valle. I suoni. C'è più silenzio, ma viene di continuo interrotto dalle sirene delle ambulanze. È qui, adesso, è tutto reale, è arrivato davvero. Il 7 marzo il suono delle ambulanze si alterna al lento rintocco delle campane funebri. È incredibile come questi suoni trapassino i timpani o arrivino direttamente al cuore. Ora la paura è palpabile, ti segue come un'ombra, ovunque, sempre. La terza settimana siamo chiusi in casa, la cosa si è fatta seria. Di malavoglia torno a Milano, il traffico è ancora più scorrevole, 1 ora e sono a destinazione. Però è interminabile perché non mi sento a posto, visto che abito in una zona altamente contagiata. Da me il virus si percepisce nell'aria, a Milano sembra ancora lontano, anche se per strada ci sono meno persone e non posso fare l'abituale colazione perché i bar sono chiusi. In reparto spuntano le prime mascherine e le persone cominciano a diminuire. Quando esco dall'ospedale noto che non c'è più nemmeno la mendicante per strada, c'è qualcuno che passeggia, spesso senza mascherina. Siamo alla 4ª settimana, tutto è dilatato, il tempo è infinito, lo spazio vuoto ma che ti opprime, anche i suoni sono più rarefatti e le sirene delle ambulanze sono meno insistenti. Le campane suonano più per scandire le ore che per ricordare i defunti. Forse possiamo avere qualche speranza e aprire gli occhi per guardare i colori della primavera che, come niente, è arrivata e procede nella sua esplosione di vita, colori e suoni. E arriva ancora il mercoledì, il giorno in cui vado a Milano. Il viaggio dura poco meno di un'ora, perché non ci sono più nemmeno i furgoncini dei muratori e al casello sono attive solo le corsie con le casse automatiche. Non pago più il parcheggio e le zone B e C. In reparto tutti hanno la mascherina, il telefono squilla di frequente, vogliono sapere se possono venire in ambulatorio. La quinta settimana, il viaggio è breve, le strade sono vuote, incontro la nettezza urbana e i camion che riforniscono i supermercati. In ospedale siamo pochi e ci guardiamo come se fossimo in mezzo a una tempesta. La sesta settimana il viaggio dura 50 minuti, tutto è vuoto. Per entrare in ospedale bisogna passare per un check-in. In corsia non c'è nessuno, siamo solo io, il medico che mi segue, una dottoranda e l'infermiera che gentilmente mi offre il caffè. Arriverà un domani in cui potremo uscire e guardarci intorno con serenità e scoprire che cosa è rimasto di un passato prossimo che però sembra lontanissimo. I don't do too much talking these days I seem to think a lot about the things that I forgot to do. And all the times I had the chance to, grazie a Paola per questa storia che davvero ha scandito queste prime 5-6 settimane attraverso i suoi viaggi dalla Bergamasca a Milano. Ricordiamo che la Lombardia, in particolar modo la zona di Bergamo e di Brescia, sono state tra le più colpite da questo virus. Continuiamo a raccontare, continuiamo a rimanere in questo argomento, continuiamo a rimanere in questo tema, perché vi stiamo raccontando oggi la quarta puntata, il quarto episodio della storia di Irene, di suo marito e della sua famiglia. Loro vivono a Firenze, si infettano, prendono il coronavirus, lo prende prima suo marito, poi lo prende lei, e suo marito sta sempre peggio, il figlio è dai parenti e lei non sa più cosa fare, fino a che finalmente, grazie ad un medico conoscente, riescono a ottenere che il marito venga portato in ospedale. Fin dal pronto soccorso gli hanno fatto subito, lui mi scriveva insomma dei messaggini col cellulare, gli hanno fatto subito tutti i controlli, tutto, l'ASTRA, gli hanno diagnosticato tampone, insomma tutto quello era necessario, e aveva già una polmonite bilaterale estesa e aveva bisogno dell'ossigeno, ma non la mascherina, c'era bisogno di ossigeno ad alti flussi, che vuol dire che stai attaccato a una macchina che te lo pompa con una certa portata al minuto e non ti puoi muovere di lì, insomma.